La parentesi di Elisabetta. Ciao a tutte, ciao a tutti. Detenzione amministrativa. La settimana scorsa ci sono state diverse iniziative a sostegno dei prigionieri e delle prigioniere politici palestinesi in sciopero della fame, incarcerati dal governo israeliano con lo strumento della detenzione amministrativa, la pratica legale per la quale uno o una palestinese diventa prigioniero senza accuse né processo, una pratica rinnovabile di 6 mesi in 6 mesi. Sono oltre 350 i prigionieri e le prigioniere in questa situazione e vengono presi di mira dagli arresti e condannati alla detenzione amministrativa, in special modo i rappresentanti politici maggiormente esposti. Il principio della detenzione amministrativa è un concetto che nasce in Germania alla fine degli anni 30 e rappresenta uno strappo importante al diritto così come noi lo conosciamo. Nel diritto borghese una persona può essere condannata solo e soltanto per il reato che ha commesso e quando questo reato è stato dimostrato. La detenzione amministrativa prevede invece che una persona sia sanzionata e internata non per quello che ha fatto, ma per quello che è, per una condizione, un'etnia, un credo politico o religioso, una situazione familiare o sociale. È il trascinamento dallo stato di diritto allo stato etico ed è un principio nazista. Lo Stato si arroga il giudizio sul comportamento e non sugli atti, sull'essenza del pensiero e sulle modalità di vita e non sul reato. Ragione per cui non è necessario un giudice a decretare la detenzione amministrativa, ma è un provvedimento messo in atto direttamente dagli organi repressivi e di controllo, nelle accezioni più svariate. Nella Germania degli anni 30, nel campo di internamento di Ravensbrück, campo per sole donne e giovani ragazze, venivano internate tutte quelle che non erano gradite al sistema, che erano madri, sorelle, parenti di antinazisti in senso lato, ma la maggior parte veniva internata su indicazione dei servizi sociali e con delle motivazioni assai vaghe di asozialen. È chiaro che la detenzione amministrativa è un grande strumento di controllo sociale, non solo perché interna tutte quelle e tutti quelli non graditi al potere, ma perché spinge anche i cittadini e le cittadine a diventare delatori e delatrici, controllori e controllore di se stessi e degli altri, e a usare lo strumento della denuncia anonima. Anche qui da noi c'è la detenzione amministrativa. Ci sono i CIE, i centri di identificazione ed espulsione, veri e propri campi di internamento in cui vengono rinchiusi soggetti che non hanno commesso reati ma che sono ritenuti irregolari. Ora tocca alle migranti e ai migranti senza permesso di soggiorno e ai cosiddetti clandestini, ma il principio può essere esteso a chiunque non sia gradito al sistema. Sono stati istituiti dalla legge turco-napolitano nel 1998 e questa la dice lunga sull'area politica che è portatrice in questa società dei principi ideologici nazisti. Perché se i principi nazisti informano una società, non dipende da quanto i simboli storicamente riconoscibili siano pubblici ed evidenti, ma da quanto un'ideologia pervade la struttura e la modalità a cui si informano lo Stato, le leggi e il metabolismo sociale che ne deriva. Il riformismo neoliberista, PD in testa, è il portatore dei principi di nazista memoria e ha la pretesa di normare ogni aspetto della nostra vita. Infatti, corollario della detenzione amministrativa sono le sanzioni amministrative che vengono comminate direttamente dagli istituti di controllo poliziesco e sono state veicolate e fatte accettare usando situazioni e accadimenti a cui l'opinione pubblica è particolarmente sensibile. Una per tutte il DASPO, che prevede il divieto per i tifosi a cui viene applicato di accedere agli stadi e l'obbligo di firma durante le partite. E la tendenza è a trasferire questo tipo di modalità alla società tutta e soprattutto a chi manifesta dissenso, etichettato subito come soggetto socialmente pericoloso. Quando si parla di solidarietà internazionalista, mettiamo spesso l'accento sull'appoggio che diamo alle lotte che attuano percorsi di libertà e di liberazione in altri paesi, ed è giusto che questa solidarietà venga messa in atto, ma l'aspetto più importante dovrebbe essere quello di riportare le lotte ad unità e a sintesi. Quando manifestiamo solidarietà ai prigionieri politici palestinesi in detenzione amministrativa, in effetti lottiamo per noi stesse e per noi stessi. The light.